te, felicità che non puoi sperare, l'odio stai sperando. Odio, odio per tutta la gente, pupille di lavare io. Io vi odio più profondamente. Mai, mai, mai, capirei cosa penso e cosa faccio. Mai, mai, mai, capirei. Sento dargli sopra un braccio, non voglio più giudicarmi. E tutto quello che io prendo non lo dite a guidare. A chi non capisco cosa sto facendo. Il lame nella carne, mi fanno forte stare bene. Lo faccio per me stesso, non certo per chi mi sente.